trovarti qui. Ehi, hey, little man, te lo sai che cos'hai e se sta male sei. Ma lì cosa credi del tempo? Per me qui per te e vabbè. Qui che il freddo è entrato nel cosmo quasi quanto in te. E vuoi fermarti qui? Ma no, little man. Mi piace.